giornata con i pugni chiusi, senso di lotta perché già sapevi che avresti lottato, tu che con la tua dolcezza dovevi avere una vita perfetta. Invece nella tua vita non hai mai smesso di correre. Dai, corri bambina, corri bambina, che correndo scappi dai tuoi strani pensieri. Dai, corri bambina, che correndo scappi dai tuoi grossi problemi. Che hai? Quando sei cresciuta hai saputo che i tuoi non stavano più insieme, ed è stato come se ti fosse crollato tutto il mondo addosso. Però anche se adesso hai 16 anni, sei sempre lì a prenderti le colpe degli altri, quindi cosa aspetti? Dai, dai, corri bambina, corri bambina, che correndo scappi dai tuoi strani pensieri. Dai, corri bambina, che correndo scappi dai tuoi grossi problemi. Che hai? Dai, corri bambina, che correndo scappi dai tuoi strani pensieri. Dai, corri bambina, che correndo scappi dai tuoi grossi problemi. Che hai? Ma adesso che sei grande, hai capito che correndo non risolvi proprio niente, e adesso non corri più, ma affronti i problemi. Perché adesso sei la più forte, perché sei la bambina dei pugni chiusi. Dai, corri bambina, corri bambina, che correndo scappi dai tuoi strani pensieri. Dai, corri bambina, che correndo scappi dai tuoi grossi problemi. Che hai?